delle stelle e dei corpi celesti sempre un po' dopo, quindi diciamo nella settimana in cui le nostre puntate vanno in onda, vanno in trasmissione su Radio Wombat, si parla di quello che è successo sostanzialmente la settimana prima, avendo avuto un po' il tempo di dare un'occhiata, di ordinare un po' le idee e di sviluppare qualche riflessione che speriamo sia utile per i compagni e le compagne che stanno nel movimento e nelle lotte e per tutti quelli che magari nelle lotte non ci si sono ancora messi, ma hanno sempre un'occasione per infilarsi da qualche parte e speriamo lo facciano e che abbiano la voglia perché ce n'è davvero tanto bisogno. Quindi, come volevo dire prima, bando alle ciance, o meglio, facciamone un'altra po' più circostanziate sulle notizie che abbiamo preso in esame. Nei giorni di questa puntata, che saranno più o meno, andremo dal 10 di gennaio, più o meno la data a cui ci eravamo lasciati con l'ultima puntata, fino al sabato 19, domenica 20. Ho preso qualche articolo, prendiamo in analisi e in osservazione quasi sempre, i giornali che riportano della cronaca locale, quindi La Repubblica, La Nazione sono i nostri, tra virgolette, preferiti. Tenendo conto che La Nazione, come ho detto più volte, è anche il giornale sfogliato più che letto dei bar, quindi uno di quei giornali che contribuisce fortemente alla costruzione di un discorso pubblico e della cosiddetta opinione pubblica, che sappiamo essere tutto sommato la risultante di pressioni e forze e discorsi che la costruiscono. E quindi La Repubblica, La Nazione e in parte anche il Corriere Fiorentino. Infatti, la prima, diciamo, notiziola che ho selezionato per fare due parole è proprio del 10 gennaio di quest'anno e dal Corriere Fiorentino che strimpella il suo violino in favore della prima auto elettrica prodotta dalla Tesla Motors che girerà a Firenze sotto forma di taxi. Un articoletto, tutto sommato non particolarmente grande, comunque dotato di una ottima foto dove è la Tesla bianca, che viene anche paragonata o chiamata Ferrari elettrica, compare sul selciato del centro fiorentino con due bei vigili urbani che la controllano e qualcuno che la guida, visto che ha anche freni tirati per farci vedere la fantasmagorica e fantascientifica illuminazione. Due parole su questa questione, per quanto riguarda appunto l'aspetto, come possiamo dire, scenografico, no? Di questa di questo avveniristico arrivo di auto elettriche nel centro di Firenze. Il primo taxi viene festeggiato in questo articolo del Corriere, come appunto a festeggiare, a sottolineare la novità portata dalle nuove auto elettriche che percorreranno il centro e sappiamo che in qualche modo una delle intenzioni dell'amministrazione fiorentina sembra quella di voler chiudere il traffico alle auto non elettriche e quindi in qualche modo nel giro di qualche anno probabilmente, perché chiaramente lo smaltimento o la limitazione o la sostituzione dei veicoli a benzina, diesel o doppia alimentazione anche a gas e benzina con quelli totalmente elettrici o ibridi non sarà una cosa che avverrà in tempi brevissimi, però in qualche modo qualcuno ci sta pensando. Qui ci collochiamo all'interno di quello che è in qualche modo un passaggio, una transizione epocale che molti auspicano a breve, noi certamente per certi aspetti siamo tra quelli, anche se ci teniamo in qualche modo a prendere delle distanze, a sottolineare la differenza che c'è tra un'opzione che vede nella possibilità della mobilità elettrica, una riduzione degli inquinanti, ma anche una revisione complessiva della mobilità, e invece un'altra opzione che chiaramente è rappresentata dagli stessi costruttori di auto elettriche. E da molti di questi che vede un nuovo business nella sostituzione dei veicoli privati ad oggi alimentati a combustibili fossili o a gas con veicoli totalmente elettrici o ibridi con una componente elettrica progressivamente sempre più elevata e preponderante. Chiaramente sappiamo come dietro anche alla questione delle batterie, lo stoccaggio dell'energia elettrica è sicuramente uno dei principali problemi da un punto di vista tecnico, più che la produzione, che indubbiamente anche con la con lo sviluppo della pannellistica solare e fotovoltaica è arrivata a un livello di produzione, direi, discreto, questo è perlomeno quello che ricaviamo dalle ricerche, dagli articoli scientifici in materia. Il principale problema resta quello dello stoccaggio, che in qualche modo viene ad oggi affrontato e tra virgolette risolto con il litio, con questo nuovo appunto minerale, che chiaramente, come spesso è successo nella storia delle scoperte scientifiche, poi ha un costo nella sua estrazione. Ora non entriamo troppo nel merito, sappiamo però per esempio che uno dei più grossi giacimenti di litio sul pianeta, perlomeno conosciuto ad oggi, è quello che soggiace sotto il Salar de Uyuni, che si trova in Bolivia, un deserto salino davvero interessante anche da un punto di vista così, diciamo, turistico, se si può usare questo termine, turistico-naturalistico, perché è sicuramente un paesaggio assolutamente interessante, forse unico sul pianeta, e sotto questo deserto salino ci sarebbe uno degli stock più grandi di litio mai scoperti, e quindi ci sono già appetiti che si stanno sviluppando per l'appropriazione ovviamente privata di questo litio. Un'altra così suggestione, più che riflessione in merito a questo problema, l'idea di trasferire tutta la mobilità così com'è da combustibili fossili a elettrico, per quanto interessante, apre comunque indubbiamente degli scenari di nuova difficoltà, di nuovi problemi legati non solo appunto alla questione, come stavo dicendo, delle materie prime che servono alla costruzione delle batterie, che sono indubbiamente l'elemento più critico e però nello stesso tempo indispensabile alla mobilità elettrica, poi lascerebbero comunque aperta e irrisolta tutta un'altra serie di problematiche. Per esempio, sappiamo che la produzione delle PM, cioè le cosiddette polveri sottili e nanopolveri, le PM10, le PM2,5, che nell'ultima parte dell'anno e all'inizio di quest'anno abbiamo visto e ne abbiamo già parlato di come hanno reso la nostra aria irrespirabile e continuano a farlo. Gran parte di queste polveri sono prodotte non solo dalla combustione, dal funzionamento dei motori, ma anche dalla componentistica, dai freni, da altri tipi di attriti che ci sono nella mobilità privata. Quindi, indubbiamente, il gran numero di veicoli è uno dei principali problemi e crediamo, siamo convinti che appunto la mobilità vada e andrebbe rivista complessivamente, ponendo un occhio di attenzione anche a quella che è l'assetto della città, città nelle quali, lo vedremo anche negli articoli che abbiamo preso in esame questa volta, sono sempre più deprivate di servizi, quindi costringono la gente a muoversi di più, togliendo i servizi di prossimità, creando invece grandi attrattori. E indubbiamente anche per altri versi l'organizzazione del lavoro legata fortemente alla precarietà, alla transitorietà da un lavoro all'altro, la scarsità di certezze nella vita quotidiana si riflette anche nel forte uso del mezzo privato, no? Sono tante le esigenze durante la giornata e non tutte sono le possiamo soddisfare con mezzi poco impattanti, quali potrebbe essere la bicicletta, e per tante ragioni ci ritroviamo ad usare la macchina, fino quasi al paradosso che questa visione fantascientifica di cui sono portatori alcuni imprenditori, di cui uno diremo due cose adesso, vede quasi appunto il paradosso per cui saranno tendenzialmente nel futuro i poveri ad essere produttori di emissioni serra e inquinanti, mentre i ricchi si stanno orientando ad un futuro verde, no? Chiaramente se lo possono anche permettere, mentre per i poveri, insomma, per le classi popolari, senza usare le categorie, diciamo, di Papa, insomma, dei papi, per le classi popolari, indubbiamente questo adeguamento ha dei costi e delle difficoltà che non sempre sono semplici. Quindi, di fronte a questo futuro fantascientifico che alcuni disegnano, ci sono dei nuovi affari, tantissimi problemi. E non ci sembra casuale che, per ritornare un po' all'articolo e poi chiudere su questa notizia, la Tesla bianca con cui abbiamo cominciato a parlare di questo argomento sia prodotta da Elon Musk, qualcuno l'avrà sentito nominare, un mega, gigantesco imprenditore che, ha cominciato, il suo giro d'affari con il sistema di pagamento online di PayPal a eBay. E poi ha cominciato a investire anche sulle auto elettriche, dando origine e vita a questa mega industria, mega azienda che si chiama per l'appunto Tesla Motor, facendo un po' il verso anche al grande Nikola Tesla, scienziato che si è occupato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento di elettricità, insomma, di cui potremmo parlare, ma ora anche per non sbrodolare, visto che la mia non è una formazione prettamente scientifica, lasciamolo perdere. Elon Musk, quindi il mega imprenditore che si sta occupando di produzione di veicoli elettrici, dando origine a mezzi come questo, che tra l'altro, appunto, per chi lo vede, se lo volesse guardare, per curiosità, guardi che macchina è, cioè il volume, la grandezza, diciamo i comfort, cioè una macchina che indubbiamente si, come dire, si caratterizza per il tentativo di essere esattamente uguale per lo standard, per il suo standard rispetto alle macchine a cui siamo abituati, quindi non c'è una riduzione del volume, non c'è una riduzione particolare del peso, non si riduce l'ingombro, non c'è, sembrerebbe neanche particolare attenzione all'impiego dell'energia elettrica, perché per esempio gli stop fotografati, sebbene indubbiamente saranno a LED di ultima generazione e quindi di poco impatto, potevano anche essere più piccoli tenendo conto di questo aspetto, però ora qui si entra poi nelle pulci. Un'altra cosa così curiosa su Elon Musk, per chi l'avesse vista, Elon Musk compare intervistato anche nella serie, una delle ultime serie fantascientifiche, Mars, quella serie che ipotizza, mi pare il regista sia Ron Howard, se non vado errato, ma controllate pure su Google, guardatela, sono pochi episodi, è anche curiosa, che ipotizza una prossima colonizzazione di Marte. Tra gli elementi strategici e vitali di questa possibile colonizzazione di Marte ci sarebbe la possibilità di usare dei razzi che riescono ad uscire dal nostro sistema, diciamo dall'orbita terrestre, e poi riatterrare, quindi la possibilità di utilizzarli come taxi, cioè di non buttare via ogni volta un vettore spaziale, ma di poterlo riutilizzare. Ebbene, Elon Musk è tra quelli che stanno fortemente studiando e provando con vari tipi diciamo di astronavi, di razzi, l'uscita e il rientro controllato sulla Terra, e sembra che sia la sua azienda, di cui adesso non ricordo il nome e sull'articolo non è citata e non la sto a cercare su Google per non perdere tempo, però sembra che la sua azienda sia riuscita veramente per la prima volta a far riatterrare un razzo in piedi, e quindi potenzialmente l'impiego come taxi spaziale è possibile. Quindi Tesla Motor che fa da taxi nel centro di Firenze, ma anche verso una possibile colonizzazione di Marte. Quindi chiudiamo su questa notizia, andiamo avanti, buttiamo un occhio su Firenze, dove abbiamo i festeggiamenti del sindaco Nardella per l'apertura diciamo, del quartiere della Leopolda, quello che sta, diciamo, alle spalle e a fianco della Leopolda, che è stato aperto, e giustamente, tanto per fare qualcosa di veramente innovativo, e si torna un po' al discorso che ho fatto anche prima sui servizi di prossimità che spariscono o non esistono o non si programmano e non si pianificano, mentre quello che si costruisce, si realizza, o forse ancora più correttamente si fa, si lascia realizzare, proporre cos e costruire a soggetti privati, sono case, negozi e uffici. E infatti nell'articolo della Nazione del 10 gennaio si vede come dietro la Leopolda una nuova città. Ci saranno case, negozi e uffici, e si taglia il nastro allegramente tricolore con le forbicioni d'assalto, il nostro Nardellone, l'assessore Bettarini all'urbanistica per questo nuovo successo appunto di costruzione di case, negozi, uffici, che veramente ci sembra quello che a Firenze proprio non mancano, eppure si costruiranno nuovamente. Andiamo un attimo oltre, ci teniamo anche a buttare un occhio nel centro di Firenze, in quello che accade, e nella settimana che è stata anche la settimana di Pitti, quindi oltre all'aspetto delle diciamo casino sulla viabilità e sul traffico, che indubbiamente quasi tutti ne avrete avuto un assaggio amaro. Abbiamo preso dal Corriere Fiorentino una delle varie notizie che sono comparse su i Brooks Brothers nel Salone dei 500, quindi il festeggiamento, perché sostanzialmente su tutta la stampa locale non è stato trattato se non con caratteri enfatici e come una ricorrenza o un'occasione da festeggiare la sfilata che questi non saprei nemmeno, scusate la mia così ingenuità dal punto di vista di questa notizia, questa azienda, sì, chiamiamola comunque azienda, forse il termine è anche non riesce bene neanche ad indicare le dimensioni, le caratteristiche di questa azienda di moda, dei Brooks Brothers, che sono stati ospitati dentro Palazzo Vecchio, e appunto il Salone dei 500, che è diventato luogo di questa sfilata. Questa è una notizia che in qualche modo, se la stampa locale ha festeggiato, insomma, capiamo bene ovviamente il perché. Ci sembra invece da parte nostra sia una necessaria sottolineatura in senso di denuncia e di, se vogliamo, di indignazione. L'utilizzo che vediamo fare del patrimonio pubblico, soprattutto di quelle che sono i gioielli, considerati i gioielli appunto del patrimonio fiorentino, e in qualche modo lo sono davvero dell'umanità. Il Salone dei 500 sicuramente è tra questi, ma si va ad inserire in un solco purtroppo tracciato da tempo, inaugurato dall'amministrazione Renzi, e alla quale Nardella non ha fatto che dare seguito, forse addirittura implementando le occasioni di prostituzione, con cui appunto si aprono gli spazi pubblici del nostro patrimonio storico-artistico a soggetti privati di questo genere. Ecco, qui non c'è niente che questi soggetti portino che non sia lautamente ricambiato. Direi che la possibilità che un sarto, che un'azienda di moda possa sfilare all'interno del Salone dei 500, non c'è affitto che l'amministrazione fiorentina possa riscuotere, che vale il valore aggiunto che per questa azienda è l'utilizzo a scopo privato e di puro e semplice marketing per quanto riguarda l'uso del Salone dei 500. Appunto, abbiamo detto, è una storia purtroppo che va avanti da un pezzo. L'abbiamo visto con la privatizzazione, l'uso privato del Ponte Vecchio per la cena della famiglia Montezemolo. L'abbiamo visto in molte altre occasioni che ora non stiamo insomma, non stiamo a ripercorrere, ed è motivo di fortissimo fastidio. Ecco, questo è stato lo special event di Pitti. Mentre appunto c'è tutta la campagna in corso per l'implemento e lo sviluppo del polo fieristico, diventa parte del polo fieristico qualunque gioiello del nostro patrimonio storico-artistico, che viene così sottratto ai suoi cittadini, al suo popolo, che poi tra l'altro sono quelli che in realtà lo mantengono con le tasse. E sono quelli che di questo patrimonio si dovrebbero veramente avvalere in tutti i sensi, sia come destinazione d'uso, sia come crescita culturale. Quindi siamo all'assurdo quasi che dentro Palazzo Vecchio fanno fatica a entrare gite scolastiche o altre forme di di attraversamento a fini conoscitivi, didattici e pedagogici, soprattutto da parte delle scuole delle periferie, mentre si regala e si aprono le porte, o anche se fosse affittato, ripeto, il gioco non vale la candela, per soggetti come questi, in questo caso i Brooks Brothers, e chissà chi saranno i prossimi. Andiamo ancora oltre e ci spostiamo lunedì 15 gennaio su un articolo della Nazione che non poteva non incontrare la nostra attenzione, perché vediamo la faccia relativamente invecchiata, anche se sicuramente non fa un cazzo dalla mattina alla sera, di Giovanni Donzelli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Per certi aspetti anche un mio coetaneo, perché negli anni dell'università, che ormai insomma sono diversi, diversi anni fa, però quasi tutti lo ricorderanno nelle file del Fuan. Insomma, il Donzelli ha fatto carriera, ora addirittura consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e denuncia questo episodio del quale purtroppo non abbiamo, perlomeno nelle reti di movimento nelle quali sono più direttamente impegnato personalmente, non abbiamo dei riscontri, quindi non riusciamo a fare in qualche modo una concreta demistificazione. Però due parole le dobbiamo dire lo stesso: l'articoletto e la sua faccia compaiono sotto una denuncia dove si dice che via dell'Osteria scoppia la polemica, bottigliata contro un autobus, ora basta, episodio gravissimo. Quindi Donzelli che insiste e persiste nel strumentalizzare fatti sicuramente anche di entità relativamente grave che avvengono nella zona delle piagge di Peretola, e da tempo che in quella zona c'è un investimento da parte di questa forza politica, di queste forze politiche che non si vergognano, anzi direi sono stati i cavalli di Troia, la copertura istituzionale anche per altre organizzazioni neofasciste, pericolose non di più e neanche di meno di quella a cui lui stesso appartiene. Quindi diciamo sostanzialmente che è anche in sintesi che sono la stessa cosa, cioè la faccia istituzionale del fascismo in doppio petto, giacca e cravatta, o anche solo cravatta e camicia, come in questo caso per Donzelli, e quella del fascismo magari rappresentabile con le bretelle e l'anfibio. Sono poi la stessa cosa. Quindi c'è questa denuncia, ancora una volta, sul tema della sicurezza, sempre in quei quartieri, uno dei loro cavalli di battaglia, ovviamente insieme al razzismo e alla più becera xenofobia. In qualche modo, rispetto a questa notizia, mi viene da dire, diciamo, un commento positivo, che in qualche modo non sono riusciti, perlomeno in maniera pubblica e forte, a mettere le mani dentro le due altre grandi questioni che attraversano quella parte dell'area metropolitana fiorentina, che sono l'inceneritore e l'aeroporto. In questo sicuramente la presenza del movimento, nello specifico nella zona delle piagge delle mamme no inceneritore, quindi perlomeno della loro componente brozziano peretolina, e anche della presenza del centro sociale Il Pozzo di Don Santoro, sono sicuramente degli anticorpi molto utili alla possibilità che questi soggetti si approprino e facciano campagna e propaganda politica anche su questi due temi, mentre sono rimasti fortunatamente per certi aspetti limitati alla questione della sicurezza, e come abbiamo visto non passa episodio che non ci sia il loro zampino. Andiamo al 15 gennaio, abbiamo selezionato questo articoletto della Repubblica sulla questione della tranvia, un'altra grande protagonista della nostra area metropolitana fiorentina, indubbiamente elemento ad oggi molto critico, parte quella che la Repubblica chiama guerra legale, tranvia dai binari alla guerra legale. Mentre i cantieri stanno per chiudere, rispetteremo i tempi, tra parentesi, si è già aperto il contenzioso tra comune e ditte per i ritardi nella realizzazione delle linee 2 e 3. Da stasera nuovi lavori alla Rotonda di Novoli, viabilità stravolta. C'è per lo più, appunto, quasi sempre quando si parla di tranvia nella cronaca locale, l'aspetto e l'accento viene messo sull'impatto che questo ha già ad oggi sulla viabilità. Indubbiamente è una situazione raccapricciante. Fiorentini che si muovono nell'area metropolitana e nelle aree di Firenze interessate sanno di che si sta parlando e non c'è bisogno di dire altro. Mi sembra però, ecco, che sia tutto sommato questo aspetto del parlare e straparlare continuamente solo dell'elemento ordinista e quindi dell'aspetto della tranvia come turbativa all'ordine pubblico, in questo caso all'ordine della mobilità, sia poi tutto sommato un dispositivo che permette di occultare tutta un'altra serie di questioni. La principale ci sembra da rilevare sia quella dei costi, cioè noi non possiamo parlare di tranvia facendo a meno di parlare del costo di questa tranvia, un costo spaventoso che credo vada sempre in qualche modo ricordato, cioè mentre le stime che vengono fatte intorno alle medie europee sui costi delle tranvie si aggirano intorno agli 8 milioni al chilometro, a Firenze stiamo spendendo 36 milioni di euro ogni chilometro di tranvia. Quindi in sostanza per farne 20 km circa il costo complessivo è di 720 milioni. È una cosa veramente pazzesca, di questo se ne parla quasi mai o comunque fin troppo poco. E pensiamo così per fare dei raffronti che sono stati fatti diciamo dall'universo dei comitati contro la tranvia, hanno preso in esame Amsterdam, Bruxelles, Amburgo, Lipsia e la media di spesa è di 7,5 milioni al chilometro. Ripeto, qui a Firenze ne stanno spendendo 36 milioni, a Padova ne hanno spesi 6,6, a Verona 5,8, a Bergamo che è costosa 12, a Torino 8,5 e a Firenze, lo ripeto, 36. Quindi quando si parla di tranvia quasi mai si parla insomma, di quanto sta costando. Quanto sta costando e questo è il costo ad oggi, perché come abbiamo scoperto, detto e denunciato più volte, dietro gli errori di progettazione e alle difficoltà poi della costruzione vera e propria delle infrastrutture, c'è un altro grande business che è quello delle varianti in corso d'opera e dell'aumento e della lievitazione dei costi. Un altro esempio che portiamo, ne abbiamo parlato tante volte, ma per chi ascolta con continuità faccio una piccola scusa, mettetevi diciamo nei nostri panni, pensiamo anche che a volte non si ascolta sempre, ma magari uno ascolta una puntata e non un'altra, quindi a volte la circolarità di alcune informazioni riteniamo importanti, ci sopporterete. L'altro esempio che volevo fare è quello della stazione alta velocità, la stazione Foster, che appunto tra l'altro da un punto di vista infrastrutturale del suo valore d'uso non serve assolutamente a niente perché già Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana hanno detto esplicitamente che non sposteranno la stazione alta velocità da Santa Maria Novella a questa, quindi si è discusso se sarà un hub per lo scambio tra treni e bus, se ospiterà solo dei bus. Probabilmente ad oggi non lo sanno ancora neanche gli stessi costruttori, però è già costata 700 milioni di euro e il costo previsto per il suo completamento va verso i 2 miliardi e mezzo e il suo valore d'uso è già sostanzialmente scaduto. Quindi c'è questo, per ritornare alla notizia, comincia questo contenzioso legale tra il Comune di Firenze e le ditte appaltatrici perché si devono muovere. Sicuramente Nardella vuole dare l'impressione di essere quello che fa rispettare i tempi e vediamo se sarà veramente così. Proseguiamo nella nostra odissea fatta di piccole notizie. Ho preso dalla Nazione del 16 gennaio, che è l'unico giornale che in quel giorno lo riporta, un trafilettino piccolo che quantomeno ne parlano, anche se ovviamente merita pochissima attenzione, come quasi sempre avviene per notizie di questo genere, perché insomma, le attenzioni sono discrezionali e evidentemente qui non c'era la volontà di dargli spazio su lo sversamento da parte della Manetti e Roberts. Quello che è stato definito un incidente, poi si dovrà vedere fino a che punto dovuto all'incuria della stessa azienda o a elementi che non potevano essere previsti, insomma, lo sversamento nei canali, diciamo, nel canale di cinta della piana di quello che era. Le produzioni della Manetti e Roberts, quindi gran parte del sapone. L'ARPAT fa sapere che ci saranno delle indagini, delle prescrizioni, però insomma l'articoletto è davvero breve, dice molto poco e non stiamo a dire di più. Ricordiamo però che questa cosa è successa, che sicuramente è stata rilevante perché le bave di lumache, le schiumate che si sono viste nei canali nei primi giorni dell'anno sono state significative e indubbiamente, insomma, se sappiamo che preferiamo oggi come oggi utilizzare saponi ecologici nei lavandini e nelle docce di casa nostra, figuriamoci quello che potrà essere stato lo sversamento più o meno accidentale della Manetti e Roberts nei canali della piana, la nostra martoriata piana. Andiamo ancora più avanti, comincia diciamo da qui uno degli elementi che caratterizzeranno le notizie successive e forse andranno avanti per un bel pezzo, anche se non abbiamo la sfera di cristallo e non siamo noi a dare la linea al giornale, però viene messo nero su bianco questo patto per Firenze, questo manifesto scritto sottoscritto e firmato da 37 grandi aziende del territorio che anche attraverso la Nazione stanno in qualche modo rendendo pubblico il loro disegno della Firenze futura. Quindi la Nazione si fa cassa di risonanza, vero e proprio attore politico della scena fiorentina, come abbiamo già detto più volte, e infatti pubblica questo manifesto di Confcommercio per rilanciare la nostra città, firmato da 37 imprenditori. Proseguiamo la tavola rotonda virtuale con il secondo punto all'ordine del giorno, le eccellenze locali. Quindi questo è il secondo punto perché nei giorni precedenti era stato pubblicato qualcos'altro e i punti di questo manifesto sarebbero, secondo loro, il turismo di qualità, la viabilità e il traffico, lo stop all'abusivismo, le eccellenze locali. Poi, appunto, su queste cose torneremo con una certa continuità e insistenza perché hanno e avranno indubbiamente una certa rilevanza. Il giornale appunto mette in evidenza questa roba, questo manifesto nel quale c'è la ricetta di Bassilichi che è non perdiamo la voglia di migliorarci. Ecco, questo è ciò che dice Leonardo Bassilichi, che ovviamente lo ricordiamo nei giorni di fine anno del 2017. Tra i promotori e i principali animatori della manifestazione a Peretola per il sì al nuovo aeroporto. E infatti non è un caso se, diciamo, nella spalletta sinistra dell'articolo, i punti salienti con i quali la Nazione, il giornale, riassume il manifesto di questi 37 imprenditori riassume i punti e tra questi appunto vediamo come le infrastrutture moderne a iniziare da un aeroporto adeguato e da una fiera all'altezza della città. C'è una forte insistenza di questa serie di soggetti e imprese che si sono radunate e raggruppate intorno a questo manifesto firmato a 37 mani sulla questione del turismo di qualità per distinguerlo da un turismo in qualche modo considerato se non straccione, però non abbastanza con una capacità di spesa sufficiente a fare gola, no? Quindi appunto su queste cose torneremo, non ci dilunghiamo più di tanto adesso, mentre andiamo a guardare sulla Repubblica un altro articolo che fa un po' da contraltare a questo, nella stessa giornata gli aeroporti toscani volano passeggeri a quota 8 milioni. Quindi questo è il report. Praticamente i giornali in quel giorno hanno riportato le comunicazioni, i comunicati stampa emessi da Toscana Aeroporti, tant'è che se li dovessimo smontare e rimontare sarebbero semplicemente degli articoli in cui una parte è stata anteposta a un'altra o viceversa da un giornale all'altro, ma esattamente sono gli stessi numeri, le stesse parole, gli stessi commenti a significare che sono state usate e pubblicate esattamente le parole e i dati forniti da Toscana Aeroporti. Quindi c'è da una parte il festeggiamento per i due aeroporti che insieme arrivano a quota 8 milioni. Quindi da una parte è un festeggiamento, dall'altra parte si esprime con una punta di rammarico il fatto che Firenze perde qualche volo. Infatti il sottotitolo è Tra Vespucci e Galilei più 5,2%, ma Firenze ne ha persi 130.000 a causa delle condizioni meteo. Ecco, qui in qualche modo è un aspetto che ci sembra quasi ridicolo e demenziale sottolineare, però mentre Toscana Aeroporti, che ormai è proprietaria di entrambi gli aeroporti, sia di quello di Pisa che quello di Firenze, si ostina a voler spostare la centralità del polo aeroportuale toscano su Firenze, ben consapevole che la piana fiorentina, soprattutto quel tratto di piana che geograficamente è anche la bocca poi della Calvana, è sottoposta a venti, soprattutto in direzione nord-sud e sud-nord, che a volte creano delle condizioni meteo sfavorevoli all'atterraggio degli aerei. Eppure Toscana Aeroporti continua a insistere su Firenze, continua a insistere fortemente, ma le condizioni meteo, ecco, non so se Toscana Aeroporti, con tutti i ganci e gli ammanicamenti che avrà con il governo attuale e con quello futuro, potrà permettersi di cambiare anche le condizioni climatiche atmosferiche della piana. La Repubblica poi, sempre il 16 gennaio, record passeggeri quasi 8 milioni. L'aumento tra Firenze e Pisa è del 5,2%, chiaramente dati forniti sempre a Toscana Aeroporti per bocca di Marco Carrai, cancellati o dirottati 1.400 voli per il meteo. Ecco, qui hanno cambiato un po' il numero approssimando, però insomma sempre questa punta di rammarico, come se poi il meteo fosse colpa di qualcuno o di qualcun altro. In questo caso non possono dare la colpa a noi comitati dei cittadini se perdono dei voli, perché in questo caso è il tempo. Per Etola, persi 4 voli al giorno, ma è il record di passeggeri. Questo è invece il Corriere Fiorentino. I dati del 2017, negli ultimi 12 mesi dirottati 1.400 aerei. I viaggiatori salgono comunque a 2,6 milioni. Insomma, si sa che ci sono le condizioni un po' avverse. Firenze rispetto a Pisa ha qualche volo in meno, ma in totale è indubbiamente un traffico in salita e in crescita. Infilato dentro il Corriere Fiorentino, infilato dentro questo articoletto, c'è un occhiello, dice scontro sulla pista parallela e quattro comuni vogliono il ricorso al TAR. Qui un breve cappello per dire di cosa stiamo parlando. Sostanzialmente nella nuova e contestata via, cioè valutazione impatto ambientale, che è stata concessa al master plan presentato da Toscana Aeroporti per il nuovo aeroporto di Peretola, chiaramente via concessa avendo utilizzato il nuovo decreto che abbiamo sinteticamente e continuiamo a definire decreto Galletti, perché è stato scritto dal ministro Galletti, approvato a luglio del 2017. In questa nuova via si prevede fortemente la necessità dell'esistenza di un osservatorio composto dagli enti locali che sorvegli sul rispetto delle prescrizioni che ancora permangono e di cui abbiamo più volte parlato al progetto di aeroporto. La cosa ovviamente ridicola è che da questo osservatorio, che dovrebbe vigilare sul rispetto delle prescrizioni, sono esclusi tutti i comuni che sono contrari o critici o non fortemente favorevoli alla costruzione dell'aeroporto. Quindi questa cosa che commentiamo quasi con una risata, ma c'è ben poco da ridere ed è gravissima, praticamente vedrà come comune componente l'osservatorio solo il comune di Firenze, di cui sappiamo perfettamente qual è l'orientamento e qual è il desiderio rispetto alla realizzazione dell'aeroporto. Quindi dentro questo occhiellino, poco visibile comunque, tutto sommato perlomeno l'hanno detto, ci sono già quattro comuni che pensano a ricorrere al TAR perché sono stati esclusi dall'osservatorio sul rispetto delle prescrizioni. E quindi abbiamo il comune di Sesto, Fiorentino, di Poggio a Caiano, di Carmignano e Calenzano che sono i più convinti nel procedere con una richiesta di sospensiva al Tribunale regionale. L'ultima strada possibile per bloccare la costruzione della nuova pista di Peretola. Ora noi, diciamo come comitati, come cittadini, come abitanti e come Radio Wombat, sappiamo che l'unica strada non è quella del ricorso. Il ricorso e i ricorsi, come ci hanno dimostrato, sono delle armi tutto sommato interessanti di cui ci possiamo avvalere, ma non sono l'unica strada. Tra le altre strade, ovviamente, c'è quella che ci sono gli strumenti in mano alla mobilitazione popolare. Un presidio che dobbiamo indubbiamente nella primavera riattivare e rimettere in piedi e tutta la dinamica legata alle lotte popolari, all'opposizione che si trasforma e si declina poi in tutta una serie di iniziative, tra queste anche indubbiamente i ricorsi, perché no. Chiudiamo su questi festeggiamenti di Toscana Aeroporti per gli 8 milioni di passeggeri. Andiamo a una notizia che diciamo passerò in velocità. Si rompe un tubo del gas e la città si blocca, incubo in coda. Questo è la Nazione del mercoledì 17 gennaio sul nodo viabilità, che chiaramente insieme all'immagine di un vigile che tra pioggerella e traffico con la paletta blocca la città in un punto che a colpo d'occhio non riesco, sì, forse è Novoli dove stanno costruendo appunto il sovrappasso della tranvia, però mi faceva un po' ridere, direi che merita un minimo commento il fatto che si rompe un tubo del gas e la città si blocca. Ecco, la città e la sua viabilità urbana sostanzialmente è talmente precaria e devastata che basta la rottura di un tubo del gas per mandare in tilt un'intera area metropolitana. Credo che questo dovrebbe far riflettere l'amministrazione, ma sembra che non lo faccia abbastanza. Vado avanti perché il tempo stringe, le cose sono veramente tante. Così un passaggio e forse meriterebbe molto di più, ma lo dobbiamo dire. Avrete visto, forse chi l'ha visto e chi non l'ha visto, c'è stata una polemica, diciamo, di tipo ideologico, cultural, politico contro il presidente, se non sbaglio, presidente del quartiere 1 o 2, scusate, mi sto confondendo, ma non è importante in questo caso, il signor Sguanci del Partito Democratico, che per aver sostanzialmente detto che Mussolini ha fatto in 20 anni moltissime cose, insomma è stato redarguito sia da Liberi Uguali sia da MDP, insomma è scoppiata, diciamo, una polemica politica che ci interessa fino a un certo punto, se non, perlomeno per quello che è il ragionamento che facciamo da questi microfoni in questa rubrica, ho notato e vorrei portare all'attenzione di tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat questa pagina della Nazione abbastanza inquietante, dove sostanzialmente il signor Maurizio Naldini porta o vorrebbe portare degli elementi così di storia a supporto della tesi affermata da Sguanci. Mentre Sguanci continua a scusarsi e si è scusato anche nei giorni successivi per quello che ha detto, perché tutto sommato una cazzata è una cazzata, io non sto con questo giustificandolo, essendo uomo del PD, credo che il Tribunale Popolare saprebbe cosa farne a prescindere da questa dichiarazione. Però in questo articolo, in questo doppio paginone della Nazione, c'è questo inserto, appunto a firma di Maurizio Naldini, che io non conosco, che è abbastanza inquietante perché in effetti sembra portare degli elementi a favore della tesi espressa da Guanci, cioè sostanzialmente secondo lui Mussolini ha fatto davvero tanto e quindi siccome ha fatto tanto cioè, non si può che riconoscerlo. Quindi abbiamo questo doppio paginone costruito con a sinistra una foto del duce in borghese, un vestito da aristocratico, con la bombetta e una sigaretta da gagà in una delle tante performance appunto del duce, e dall'altra parte questa serie di prese di posizione e di ricordi storici, dalla costruzione dello stadio, passando per la stazione all'autostrada, e quindi tutta una serie di cose che in fondo, come dire, è d'altronde la verità che il Duce ha fatto tanto anche per Firenze, proprio perché, e qui si afferma, e quello che interessava dire è che sostanzialmente le costruzioni, le infrastrutture, le grandi e medie opere sono praticamente il paradigma e il campo di prova di ogni governo, di ogni amministrazione. Quindi praticamente nel ragionamento che la nazione ospita, fatto da questo Maurizio Naldini, il duce e l'esperienza storica del fascismo viene assolta e tutto sommato diventa apprezzabile. Perché? Perché ha realizzato la stazione, perché ha realizzato lo stadio, perché ha realizzato l'autostrada. Quindi, ecco, quello che ci interessava sottolineare è come la questione delle grandi opere sia ad oggi talmente cruciale, talmente importante da diventare anche una lente e sì, appunto, da fornire una chiave di interpretazione anche del recente passato. Cioè, quindi potremmo dire che la civiltà egizia, tutto sommato, era egualitaria o in qualche modo andava bene perché costruivano le piramidi, e come il fascismo è un'esperienza da rispettare perché, in fondo, insomma, lo stadio l'ha fatto. Ecco, quindi ci sembrava tutto sommato interessante questo aspetto. Ecco, una riflessione sull'oggi più che sul passato, sul ieri, con il quale abbiamo assolutamente chiuso nel 45. E non vogliamo più avere a che fare, avere nuovamente da discutere. Un'altra piccola notizia, però altrettanto interessante: abbiamo nuovamente un sorridente assessore all'urbanistica Giovanni Bettarini sulla Nazione del 17 di gennaio che finalmente, come spesso accade, riqualifica l'area vicino a Piazza Tasso, l'ex conventino a nuova vita. Cosa costruiranno? Scommettete voi. E ovviamente la scommessa l'avete vinta perché tutti avete detto appartamenti. Infatti c'è il via libera per 25 appartamenti. Chiaramente appartamenti piccoli, con un minimo di superficie di 40 metri quadri, con parcheggio pertinenziale, perché anche le parole hanno la loro importanza, e quindi a ridosso di Piazza Tasso, a ridosso di quello che è una delle porte d'accesso al centro, a ridosso e all'interno stesso, anche se fuori dal centro storico, ma dentro quello che alcuni anni fa era stato chiamato progetto Oltrarno, si riqualifica uno spazio pubblico, anche questo, e si costruiscono case. Chiaramente, quando si faranno case da 40 metri quadri, molto probabilmente si sta pensando non di nuovi insediamenti per nuovi abitanti, ma si sta pensando ad appartamentini più o meno di lusso che verranno comprati da multiproprietà, che verranno poi messi in affitto o aggiornato a brevi periodi per persone che vorranno visitare il centro. E questo è il destino di un altro pezzo del patrimonio pubblico immobiliare, cioè la costruzione da parte di soggetti privati di case. E questo nella stessa settimana in cui si parlava delle nuove case, uffici e negozi nella zona della Leopolda. Poi qui andiamo al 17 di gennaio sulla Repubblica, congressi, un affare da 21 milioni. A Firenze tra il 2018 e il 2020, quindi nel prossimo futuro, si svolgeranno 19 convention con la partecipazione di oltre 20.000 delegati. La sua bellezza e il fatto che sia percorribile a piedi sono i punti di forza della città. E se ci fosse la nuova pista? Ecco qui che questa ultima dichiarazione ci porta subito a dire che qual è una delle tendenze alle quali dovremmo stare attenti, quindi questo tentativo di trasformare Firenze, oltre che una città ricettiva per i turisti, anche per un turismo particolare che è quello congressuale. La settimana di Pitti è stata attraversata, costellata e sostenuta fortemente da questa campagna per lo sviluppo del polo fieristico. Quindi ancora una volta e più di sempre l'utilizzo della città per affari estranei alla gran parte, alla gran massa dei propri abitanti. Quindi l'idea è quella di una nuova pista aeroportuale che con una nuova linea della tranvia arriva direttamente al cuore e alla fortezza fiorentina per poi lo sviluppo del polo fieristico. Chiaramente il turismo fieristico, come in altri articoli, è fortemente voluto perché è un turismo che si ferma, è un turismo che spende, poi chiaramente dipenderà anche da che tipo di appuntamenti siano, ma lo sviluppo di Firenze come città che ospita congressi è una delle richieste di questo gruppo di aziende che hanno firmato il manifesto delle 37 imprese di cui parlavamo prima. Quindi, insomma, è una cosa abbastanza interessante e da tenere sott'occhio. Non possiamo ignorare negli articoli di questi giorni, sulla Nazione del 18 di gennaio, ma anche su Repubblica, il fallimento della Ginori. Sono uscite le condanne, hanno venduto l'anima al diavolo. 4 anni a villa tra gli ex del consiglio di amministrazione. Portarono l'azienda al crack. Io non mi dilungo su questa notizia perché sicuramente passaggi a nord-ovest in un rapporto il più possibile organico e continuativo con i lavoratori della Ginori che negli anni si sono mobilitati ha già dato notizie fresche e dall'interno dell'azienda. Quindi è inutile che ci soffermiamo noi a fare commenti, diciamo, che rischiano di essere retorici e fuori dal contesto. Rinviamo a notizie più fresche con prossime interviste ai protagonisti di quella lunga battaglia molto importante per il nostro territorio, però una notizia da tenere in considerazione. Si arriva a venerdì 19 gennaio, scopriamo che scopriamo, riconfermiamo la volontà dell'amministrazione fiorentina di spostare lo stadio, di costruire la nuova Cittadella Viola in quella che oggi è ancora l'area del mercato ortofrutticolo di Novoli, che sta diventando sempre più noto alle cronache con Mercafir, anche se quasi tutti a Firenze lo chiamano mercato ortofrutticolo e spesso si fa confusione. Ricordiamoci che il mercato ortofrutticolo è quello che nel domino e nel puzzle della piana viene denominato Mercafir, quindi Nardella che concede una proroga fino al 31 di ottobre 2018 alla Fiorentina Calcio per fare il progetto. Cioè è una situazione da tenere sott'occhio perché comunque una Fiorentina che sembra quasi disinteressata o poco propensa alla costruzione dello stadio e un'amministrazione fiorentina che continua a risolvergli i problemi e la spinge a formulare un progetto di costruzione dello stadio che sia operativo e realizzabile. Quindi, appunto, nuovo stadio, proroga del comune, progetto definitivo entro il 31 ottobre. Sembra molto intenzionato Nardella a portare a casa anche questa tessera del suo puzzle, spostamento della Mercafir nell'area di Castello, in quella che per chi diciamo un po' la conosce, vorrei farvi collocare. La Mercafir dovrebbe andare a finire dietro la nuova caserma dei Marescialli, che si affaccia sul viale 11 agosto e se prendete la via che fa angolo, si chiama Via della Cappella, praticamente in quella zona lì si dovrebbe collocare la nuova Mercafir e al posto della Mercafir, del mercato ortofrutticolo tra Viale Guidoni e Piazza Artom, si dovrebbe andare a costruire questa Cittadella Viola che vuole fortemente Nardella, che chiaramente non è solo stadio, ma è come sempre è alberghi, è negozi, gallerie commerciali e quant'altro. Nello stesso paginone, nella parte di destra, la nuova pista per il Vespucci parte l'osservatorio ambientale. E qui è veramente la presa di culo con cui andiamo a chiudere gli articoli di questa settimana perché si festeggia il fatto che Firenze è rappresentata dall'architetto Parenti dentro l'osservatorio ambientale. Notizia della nazione che non stupisce il fatto che omette completamente quello che invece avevamo già detto, rilevando l'occhiellino del Corriere Fiorentino, un po' nascosto, ma perlomeno hanno avuto il buon senso di dirlo, cioè l'esclusione di tutti gli altri comuni da questo osservatorio ambientale. Si impone per legge che si costituisca un osservatorio ambientale e di 10 comuni, 9, perché non sono convinti o perché potrebbero dare problemi, vengono esclusi. In questo, la nazione che è maestra nel rovesciare la realtà festeggia il fatto che Firenze sia nell'osservatorio ambientale, invece che denunciare l'assenza di 9 comuni, festeggia il fatto che ce ne sia solo uno, che è il comune di Firenze, rappresentato dall'architetto Parenti, perché è l'unico comune che è favorevole alla sua costruzione. L'ultima notizia, purtroppo, in questo scangeo, in questo tritio di promesse false, di argomenti, di botte e risposte tra comune, aziende e poteri forti, purtroppo ci troviamo anche l'articolo dello sgombero del tentativo di riappropriazione che era stato fatto sempre in questa settimana da parte degli occupanti della Crepa, nella zona dell'isolotto vicino alla fermata della tranvia, che purtroppo sono stati sgomberati e sui quali non solo c'è stato lo sgombero, ma si è giocato uno dei più recenti e sicuramente anche efficaci, purtroppo, strumenti repressivi, che è quello del foglio di via, che praticamente fa le veci, in questo caso, del DASPO urbano, si affianca a strumenti come questo, e quindi c'è stato purtroppo lo sgombero, nonostante la coraggiosa resistenza di alcuni compagni che sono riusciti a salire sul tetto, ritardando le operazioni, dando il tempo per un presidio. Quindi la cosa si è trasformata comunque in un tentativo di resistenza che non è riuscito a resistere allo sgombero, e la nazione, dobbiamo dire senza eccessivi clamori in questo caso, però festeggia la normalizzazione della situazione e anzi spinge affinché la proprietà realizzi il famoso fast food, il famoso Burger King, che come se fosse tanto atteso dalla gente, mentre in realtà nessuno lo vuole se non loro, per fare i loro affari e aggiungere alla città un ennesimo fast food che, insieme a case, uffici e negozi, sicuramente ne sentivamo forte mancanza. Chiudo veramente in un minuto perché sto arrivando quasi all'ora di parlato e non ne posso più, e voi sicuramente meno di me. Il nepotismo da papi del 500 della Giunta Nardella, che per nomina, con potere di nomina, si è preso e ammesso come a capo della Corte dei Conti Toscana, tale Celeste Oranges, di 28 anni, figlia di un magistrato, di un giudice che aveva assolto Renzi. Ecco, quindi la figlia di quello che aveva assunto Renzi, e che abbiamo scoperto da altri articoli giornalistici e da altre, diciamo, più o meno controinchieste, o insomma di tipo giornalistico, che era stata già bocciata ad un concorso, ma che Nardella ha recuperato evidentemente per ragioni politiche, e l'ha messa a capo della Corte dei Conti, cosa che purtroppo per noi è un po' noiosa, perché abbiamo anche denunciato, come sapete, come ho già detto nelle puntate precedenti, la spesa eccessiva che siamo sottoposti a sostenere come cittadini per il mancato raggiungimento degli obiettivi imposti dall'Europa in materia di raccolta differenziata. Siccome non li abbiamo raggiunti, ce li stanno facendo pagare, noi abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale contro Nardella, contro Giannotti, contro tutti i coinvolti. Un grande saluto, perché siamo veramente in scadenza. Un grande saluto, un ringraziamento, un pugno chiuso a tutti voi, e alla prossima puntata. Ciao.